Fare tutta la... Ristoradio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ristoradio Convento, sempre in diretta, di nuovo in diretta qui dagli studi in Lonato del Garda del convento di Lonato. Stiamo festeggiando un'altra lunga e bellissima serata e abbiamo l'occasione di parlare ancora con altri due ragazzi di una festa di cui abbiamo accennato già con un'altra ragazza prima e che insomma sta proseguendo, ecco, in questa serata. Anche loro hanno, diciamo così, questa etichetta di non protagonisti, perché come la ragazza prima era un po' imbucata, loro sono non proprio imbucati, ma non effettivi invitati alla festa, ecco, diciamo così, ma hanno motivo di essere qui. Adesso capirete meglio il perché e di cosa stiamo parlando. Intanto li andiamo a conoscere, benvenuti. Benvenuto, allora. Benvenuta. Ciao, allora come vi chiamate? Io Nicola. E io sono Paolo. Nicola e Paolo, da dove venite? Siamo da Bosco Casanuova. Ok, beh, inutile che chieda, conferma che a te anche da lì. E diceva, dai, raccontateci voi qual è la festa, qual è il motivo di questa vostra serata qui. Vai, vai. Allora, praticamente stiamo festeggiando la promozione della squadra che ha come componenti i nostri amici. Sì. Per quello noi siamo imbucati. Siamo tifosi occasionali. Esatto. Però tifosi, infatti, per quello di... Cioè, la ragazza già non c'entrava proprio nulla, perché era amica della... aspetta, mi ha detto amica dell'amorosa di uno che gioca, quindi assolutamente non c'entrava nulla. Voi almeno siete tifosi, capite, sì, di cosa stiamo parlando. Sì, sì, dai. Infatti con lei non sono andato nello specifico, con voi ci posso finalmente provare. Come si chiama la squadra? Allora, US Corbiolo. US Corbiolo, parliamo di calcio, immagino. Esatto. Calcio come? A 5. Calcio a 5, quindi palestra, calcetto. Ok, promozione da A? Da A1 a Premier League. A1 a Premier League, quindi campionato ufficiale, insomma, sì, professionistico. CSI. Ok, beh, fanno tutti... Nella provincia di Verona. Fanno tutti un secondo lavoro o giocano di professione? No, no. Tutti i vostri amici. Lavoro. Ah, ok. E ma quante volte si allenano? Una volta a settimana, da quello che so io, più la partita. Davvero, una e basta. Una è partita. Si allenano il martedì sera e dopo fanno un'oretta tranquilla e poi si fa il terzo tempo, come si chiamano. Ma davvero? Cioè, una e basta è poco, no? Ah, diciamo di poco, non è solitamente, di solito almeno due. Invece no, una e basta. Anche vabbè. Sì. E dopo voi... giocano il venerdì sera. Ok. E voi come mai vi siete avvicinati alla squadra? Immagino per amicizia. Io ho il mister che è mio cugino e anche l'attaccante che è mio cugino. Ah, ok. Però come mai seguirli con così tanta costanza? Fate anche le trasferte? Sì, anche sì. Perché come mai questa voglia di seguirli con, dicevo, così tanta passione e dedizione anche? Perché ci vuole anche quello. Il gruppo tira anche gli amici, i parenti e tutti, e quindi... Sono coinvolgenti. Sono coinvolgenti. Rosa di quanti giocatori? Sono in 15. Urca, bella lunga. Giocano in 5 ma sono in 15. Bella, bella lunga. Ha modo di giocare tutti o qualcuno viene un po' trascurato? Per forza. Bisogna, ci sta, però... ci sta. E quello è il calcio. Sì. Vabbè, è inutile chiedere cos'è 1-2-1, sì, per forza. Sì, per forza. Modulo e calcetto. Non c'è tantissima scelta, immagino 1-2-1. Il mister non ce l'ha facile. Il mister non ce l'ha facile. Ok. Come è andato il campionato, indipendentemente dall'averlo vinto, però è stato facile, tirato? Allora, fino a gennaio eravamo primi. E dopo, da gennaio, erano troppo alle stelle e quindi hanno deciso... Si sono un po' illusi, esatto. Si sono un po' illusi e hanno perso un pochino di partite e alla fine hanno dovuto andare su con i playoff. Quindi tramite playoff? Tramite playoff. Nelle prime due non sono passate, sono arrivati i playoff a maggio, fine maggio. Quindi come terza? Come terza, come sì. Miglior terza, quindi accede. E che differenza c'è tra la 1 e la Premier League? Cioè, pensavo che la 1 fosse il massimo del possibile. Parliamo nella provincia di Verona. Uh-huh. Non è FIGC, non è... Ok. È dilettantistico. Diciamo che... come dire? Allora, più che altro, non è che ci sia magari questa grandissima differenza, solo che proprio in Premier League è un altro livello. Ok. Cioè, anche gli allenamenti adesso si alleneranno più volte a settimana. Beh, chiaro. Sarà un attimo un cambiamento. È il top. Sì, è la passata prima. È il top. Esatto. È il top della provincia. Beh, esatto, oltre a quello non si può salire. Non si può salire, no. Premier League è la categoria massima. O si va in FIGC o si rimane in Premier League. Ok. Volevo dire una cosa ma non me la ricordo più. Volevo un attimo capire dal punto di vista del, cioè, voi che tifosi siete, cioè molto focosi o che entrano al punto giusto, al momento giusto, cioè come vi gestite in curva, chiamiamola curva, vabbè. Chiamiamola curva, sì, dai. Allora, dipende. Anche perché, cioè, non lo chiedo a caso, perché anche dal punto di vista sonoro la palestra è un bel casino. Sì. È un bel casino, quindi capisco ed è giusto che ci sia il vostro entusiasmo, però c'è il rischio che non ci sia anche comunicazione in campo, magari, che ne so, il mister non riesca a farsi sentire o che sia veramente fastidioso urlare, cantare, come sappiamo e conosciamo tutto lo stadio. È un bel luogo, no, Paolo? Sì, sì, quello sì. Poi ecco, non, diciamo che non siamo il tras da cori, facciamo il tifo, incitiamo e quando arriva il momento si festeggia e allora si incita, si urla e tutto, però generalmente siamo, diciamo, tifosi abbastanza tranquilli, ci godiamo la partita e, E poi si... Non date fastidio, no, diciamo così. Per il terzo tempo ci siamo tutti comunque. Famoso terzo tempo, come è giusto che sia, che tra l'altro fa la felicità e la fortuna di tanti locali, di tante osterie, di tanti agriturismi, insomma, chi per loro, perché arrivano, come dire, stuole di persone, di giocatori. Tra l'altro dopo una partita, come sappiamo tutti, perché è un minimo di pallone, ci abbiamo giocato bene tutti, c'è una fame chimica che ti mangeresti anche un tuo parente praticamente, e quindi i ristoratori sono sempre contenti. Ci guadagnano tempo. Anche loro. Eh no, al terzo tempo sono contenti, infatti loro cercano di accaparrarsi tutte le squadre per averle lì, perché insomma, non nascondiamoci dietro un dito, fa un buon cassetto una squadra di calcio. Tanti sperano appunto che ci sia questa continuità anche dal punto di vista dei locali. Mi è venuta in mente la domanda che volevo fare prima, le distanze, cioè come si muovono, sono tanto lontane le squadre l'una dall'altra o si riesce a conciliare? Noi siamo a una... Allora... Cioè la trasferta più lunga ad esempio? Siamo una trentina di chilometri fuori da Verona, noi. Siamo dalla montagna. Ok. Montagna di Verona. E la peggiore trasferta è tipo a Valeggio. Comincio, sì. O sennò a Quaderni di Villafranca. Beh, termini chilometrici di tempo? Sui 60 chilometri massimo. Insomma, dai. Sì, qualcosina. Si la può giocare. Non è comoda, non impossibile, però comunque non è comoda. Beh, voi andate con i mezzi pro vostri? Sì, sì. Quindi complimenti intanto e saranno sicuramente contenti di avervi vicino e comunque di vedere che seguite, anche perché insomma vi giocate i vostri venerdì sera col vostra macchina e non è da tutti, quindi bravi. A questo punto c'è un coro, c'è una canzone, c'è qualcosa che rappresenta la squadra? Last in the Moment. E cos'è? Una canzone. Ah, esiste veramente? Sì, sì, esiste. Ok, e cosa significa per loro? Era del nostro spogliatoio nei juniores l'anno scorso. Ah, e l'hanno portata. Aspetta. Live in the Moment dei Portugal the Man. Live in the Moment. Ah, forse ho capito. È molto bella. Sì, sì, sì. L'avevamo usata come canzone degli juniores e siccome alcuni che adesso fanno calcetto erano degli juniores sono rimasti, è rimasta anche la canzone. È rimasta anche la canzone. Vabbè, ma quindi la cantate o no, se ce l'hai non in curva, ma qui no, però aspetta, vediamo. Ma può essere, cos'è la live in... Live in the Moment. No, più che altro perché io ce l'ho presente ma adesso ho la mente un po' offuscata. Portugal, esatto. Eccoli lì. Vediamo perché me la ricordo un po', eh. Incitava molto i juniores. È una cosa incredibile. Il post campionato con questa è stata una cosa mostruosa. Sì? Bascati. Serio. Non abbiamo vinto, ma ci siamo arrivati quasi in fondo. Aspetta, adesso. Sì, mi è saltato l'audio per qualche motivo. Ce l'ascoltiamo poi in un secondo momento. Bene, allora inutile farvi, non inutile, bisogna farvi un po' la domanda di rito: quali sono le prospettive per il prossimo anno, quindi? Cioè giocarsela, puntare subito alto, vedere com'è, cercare di starci dentro. I ragazzi puntano. Avete già sentito qualcosa? I ragazzi puntano a vincere. Ah, così, con la massima umiltà. massimo 2 anni loro puntano a vincere questo torneo. Davvero? E andare in FIGC, ma vediamo. Ah, perché poi si va, cioè si riesce ad andare avanti comunque. Può andare avanti, bisogna passare di... Beh, diciamo che la mentalità è buona. Partire con questa mentalità è già un buon punto di partenza. Una piccola società e una piccola, un piccolo paesino, si può andare lontani. Bello, anche perché poi con tutto il rispetto e i confronti che si possono fare, non c'è gran calciomercato, non c'è gran vado a prendere quello quell'altro. Quindi vedere che la stessa squadra fa una strada e piano piano cresce, piano piano migliora, senza particolari nuovi innesti o insomma con loro, ecco, fondamentalmente è anche motivo di soddisfazione per loro stessi, per il mister, per tutti quelli che hanno creato questa bella realtà. Da quant'è che esiste la squadra, a proposito? La società è del 1995, ma la squadra calcio a 5 è da 4 anni, sì, 3 o 4 anni. No, relativamente anni, giovane, sì. Relativamente giovane. Bene, bene, dai, allora facciamo. Stiamo facendo un bel passo. Facciamo loro l'in bocca al lupo e facciamo un grazie a voi per intanto seguirli con così tanta passione e costanza e per averci raccontato e portato un po' della vostra stagione qui ai nostri microfoni. Grazie ragazzi, buona serata e speriamo di festeggiare nuovamente l'anno prossimo. Speriamo, dai, speriamo. Ci crediamo, ci crediamo. Grazie, buonanotte. Ciao, notte. Ciao.